Italia alle sedie. Fra un altro 4 anni ci vediamo ai mondiali. Speriamo, intanto questa volta ci hanno fatto fare la fine quando ha giocato con la Corea. Avanti, perché? Va bene. Purtroppo, guardi, che ci volevo fare? Niente, cosa vuoi dire? È così. Mario, vuoi che mi qua controllo come se lo sto scendo quelle coordinate, vai. Attenzione, amico, ti ascolto. Guarda, tu lo sai come la pensiamo noi, come ti ha confermato Mario, ti confermo io. Provo molto bene del radio, più di 5, già lo sai, non ti posso dare perché se c'è altra gente ce ne mettono a ridere. Santiago, ah no, 9-10, mi arrivi, radio 5. Oh, guarda, perché ha cambiato la capsula stamattina, questo microfono a tavola, e volevo sapere se sta facendo bene, tutto qua. Già, mi fido di voi, a Puglia, ci mancherebbe altro Mario. Bene, sempre bisogna migliorare piano piano. Noi, anche io, 40 anni fa ho cominciato col portatile. Adesso mi è venuto Mario, l'abbiamo provata con Gio Maria, ma quel portatile 23 canali, tutto in acciaio. Ci aveva l'antenna lunga più di 2 metri, in acciaio. Ah no, 6-7 anni fa l'avevo cambiato, l'avevo messo in gomma. L'ho appeso insieme con tutti gli altri agenti che ho, e avanti ieri o la settimana scorsa l'ho provato a vedere per mettermelo vicino al comodino, capito, e non mi funziona nulla. Adesso sono aspettando, io sento qualche amico a vedere, io penso che siano partiti tutti i finali con dei saturi e mari. Mario, tu lo sai che quegli apparati, se non li accendi, si scaricano i condensatori sul rovino, Ogni tanto bisogna accenderli, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana lo devi dare. A me la lasciarlo acceso, anche se non ci parli, a lasciarlo acceso una mezz'oretta e via, almeno una volta alla settimana, ma se no poi prendi tutto e butti via tutto. E adesso vediamo se peccato, se per caso dovessi sentire a Pompugno, glielo dico, a vedere se lui è recuperabile, quarzi e tutto il resto che c'è in quella lì. Me lo faccio cambiare, prendo un alimentatore, già ce l'ho io qua, fermo, e ce lo metto vicino al comodino, sdraiato sul letto, almeno l'hanno accendo più frequente. Avanti, perché? È positivo, Mario, è così, in effetti quando si lascia molto tempo spento partono quelli lì, partono e poi si deve buttare via tutto, perché non penso che ne valga più la pena di metterlo a posto, con quello che costa ripetere il ricambio, Mario, è il problema, E qui Gio Maria me l'ha detto, guarda, con 560, 50 euro, 60 euro trovi uno, piccolo, c'ha 40 canali, che è un bombù. E così che adesso vediamo, se si dovesse mettere a posto quello lì è buono, no, perché è un ricordo quello lì, capito? È il primo baracchino che ci ha avuto, immagina che quello lì, no, quando era ancora in servizio, me lo portavo appeso alla moto, capito? E modulavo anche la notte quando facevo il giro dei controlli la notte. Bravo, positivo, no, se un ricordo, non buttare via niente, rimarrà un ricordo. È ovvio che se si riesce a mettere a posto un po' di quadrini è sempre buono, è sempre bello, dai, sempre un ricordo. Avanti, Mario. Io qui ci sto cambiando la testa perché prima mi avevo un po', ma va bene di pure di tutti. Avvio, mi ha dato per questo del capo facendo le tutti. Io ce l'ho tutti davanti quelli che ho, capito? E faccio il giro, li faccio girare tutti, capito? Ogni giorno, ogni 2 giorni, magari, anche che non parlo, lo lascio acceso e li faccio girare tutto, capito? Quelli due che ho a mobile, già lo sai tu Mario, perché sei venuto a casa e tutti i resti che ho, capito? E così che mi stanno funzionando tutti bene. non ho avuto mai problemi, è soltanto quello là, quella vaglietta lì, c'è il canale 11, il canale 9, l'emergenza e il canale 5. Allora, se ti ricordi, Mario, si modulava sempre sul canale 5. Ma quello lì era il tempo, ai tempi dei nonni, diciamo così, là, quello lì è quando si è cominciato, è vero, adesso non fanno manco più, adesso addirittura stanno facendo i portatili con quando c'è il canale, figurati. La tecnica è diventata una cosa fantastica, soprattutto con questi aggeggi. Okay. Ma prima ti dico, quella paglietti, 5 canali, portatili con quell'antennone di 2 metri, porca la miseria, ti sto dicendo l'atmosfera era più pulita, sentivi Alghero, sentivi Ausieri, che era una meraviglia. Oggi quasi mai non intendi nemmeno questi che sono modificati, tutti quazzati, tutti fatti, tutti elettronici. Ah no, era la frequenza molto più pulita e si modulava bene, perché? Anche per il parato. No, a me avete rilasciato, scusate, ho ero distratto. E così è, ma ormai è tutto modificato, tutto un macello, tutto qua. Non c'è più la frequenza della volta e purtroppo è così. E purtroppo viene difficile anche parlarci tra di noi, pensa un po' parlare con Alghero e compagnia bella, e così è Mario, avanti. Guarda, io ho ancora un ricevitore, FR50, tutto in ferro, tutto, se lo vedi Mario già lo conosce, quello lì, e mi è andato sempre bene. Bene, sarà un poco di anni fa, mi è andato male, l'ho dato a 3-4 persone, ti sto dicendo, non sono più riusciti mai a mettermelo apposta. Ah no, un giorno così parlavamo con Luigi, ho detto, Mario, se lo dai a me te lo faccio aggiustare io. Ma avvero sì, avvero. Vedi, l'ho dato in particolare dove abitava, è venuto, l'ha preso, ti sto dicendo, quella persona, amico suo, l'ha preso in mano, gli dico che è un bombò, è un amore, e funziona così bene che è una cosa meravigliosa proprio, ma... E già lo so già, no, anche io, quelle che ho, vanno tutte bene, solo che siccome la gente mi vuole sentire con la voce sempre allo stesso modo, sto usando molto questo qua, è vero, ma ce ne ho già un fratello più piccolo, c'ho i cugini, poi c'ho i cognati, i nipotini. Scusate, faccio un attimo di bianco e mi hanno suonato il campanello. Ok, vai pure, è così Mario, adesso dicendo, allora la frequenza era più unita, più meravigliosa, eravamo tutti per uno e uno per tutti, adesso veniamo sempre lasciuti e chiacchierate, capito? Oggi tu lo sai, io lo so come la pensi tu, no. Abbiamo fatto una vita moderata, una vita tranquilla, abbiamo fatto, e così che i parolacci non mi hanno imparato e non ho imparato a miei figli io, nemmeno. Ma non è bello, quando accendi questi giocattoli, adesso c'hai nipoti, c'hai donne a casa, figli, moglie, a sentire dicendo i parolacci non va bene, la cosa deve essere più seria per andare bene. Se c'è gente manco ne accendo perché, oddio, non è il fattore di dire parolacce, solamente c'è molta gente, ce l'ha per abitudine, a chi entra, a chi esce, capito, va lì, senza dire niente, ed è tutto un po', anche perché la radio serve sì per chiacchierare, ma a volte serve anche per scherzare, per dare le mattutine, così, senza uscire fuori dal secchio, diciamo così, dai. E niente, però purtroppo... scappa. Giustamente non è che lui andrà in giro a Briallo, però se ce ne può fare almeno è meglio, perché giustamente, come hai detto tu, può capitare che entra una nipotina e manca a farla apposta, in quel momento si dice qualche parola un po' pesante, ma molte volte non è detta manco con cattiveria, è detta così anche come battuta di spirito, come faccio qualche volta io con un buco. Buone Sardegna, scorsi qua la Puglia, scappa. Re, attento la Puglia, con Nordo Sardegna, la maglia Alfa Oscar, quel re Mario dalla città di Sassa ti chiama, avanti Puglia. Che ti pare? Scusate, vi devo lasciare che ciò c'è a casa, vai. Tutte le migliori del prossimo, ciao Mario, ciao l'altro Mario, e ce la riascoltiamo alle migliori, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, anche tutta le prossime, dai, si coincide. Avanti la Puglia. Dai. Non risponde, così no, una cosa era più seria prima. Mi sembra vera, chiedo una persona da fuori, la fai accomodare in camera dove tu sia, che giro. Rimani a bocca aperta e tutta questa roba qua. Ehi, fammelo sentire. A chi sembra bella a te? Questa persona vuole sentire, hanno questi apparati, quando incominci a sentire parolacce, cose che... guarda, non voglio sterminare a nessuno perché ognuno fa quello che le pare le piace, per ora la cosa era molto più seria prima. Ecco, c'era più controllo dalle poste, c'era un'associazione, se per caso uno si comportava bene prima di fare male, se anche non era scritta l'associazione, si ringraziava come si chiamava, si mandava una lettera, si mandava, si dava gli avvertimenti a comportarsi bene, altrimenti si faceva anche cose più guai, si faceva, capito? Ma oggi non c'è più associazione, non c'è più controllo. Non c'è più controllo, così che la cosa si è sporcata molto, molto. E non c'è più associazione perché già lo sai come sono anche le associazioni. Tu ti ricordi benissimo che c'era uno dei presidenti che ha rotto le scatole a Gian Maria perché io mi stavo dando una mano per mettere a posto l'antenna, non so se te ne ricordi. E quindi che se l'associazione deve andare a controllare cosa fai e cosa non fai e con chi lo fai, e quello lì non va bene, perché a parte che non era manco un uomo quello lì, perché se era stato un uomo sarebbe comportato diversamente, capito? Niente, poi cosa vuoi che ti dica? Io l'unica associazione che ho trovato che era un pochettino seria era quella di Porto Torres, che poi hanno sconciato anche quella lì perché hanno buttato tutto giù e hanno fatto pulizia e così che gli hanno tolto anche la sede. Poi abbiamo perso i contatti e non so più se ne hanno restato o meno. Per lettera, dopo si comportava male, segnalava persone come te, non è che un consigliere, un delegato dell'associazione andava e si bussava alla porta a quel tipo lì, capito? Si avvertava e si prendeva dei mesi provvedimenti, si prendeva, no, l'associazione, no, anche qua c'è stato, io ho conosciuto quattro presidenti, ho conosciuto quattro presidenti, però ti sto dicendo tutti persone serie, persone brave, è tutto, capito? Era il controllo, era più perché c'erano i mesi delle poste, delle telecomunicazioni, hanno antenne in macchina e quando si sentiva qualcuno sotto la finestra ha vinto attentamente, segnalava e ci portavano gli strumenti che ci avevano loro, ci portavano fino a casa. Vabbè, quello lì era tutto un'altra cosa, però prima c'era anche l'ascolto dalla prefettura. siamo in frequenza, così che si sa, ma sorvoliamo, va, parliamo di altre cose. Mario, hai visto, ah, il caldo è venuto, porca la miseria, oggi dobbiamo essere a 40 qualche cosa per quanto ha segnalato stamattina le previsioni del tempo. Esatto, aspetta Mario, c'è stato qualcuno che ha detto attenzione, attenzione, però poi c'è parlato sopra e non ho capito chi era, avanti l'attenzione. Quindi della Sardegna, guarda su di Italia, provincia di Venezia, di Super Concianista. Attenta Sardegna, secondo la Puglia. Puglia, ci abbiamo mandato avanti, però non c'è risposto, cambio. Interessante che tutto va bene a tutti. il lavoro, in casa e tutto, avanti. Ho sentito più a cosa, Gio Maria. E Gio Maria, anche Gio Maria, controlli, lui, la moglie, cose varie. Da ieri sera non c'è la macchina, deve essere giù in campagna, però in campagna se non c'ha fa nulla già ce l'ha l'apparato stesso, ma nemmeno da campagna lo sento, capito, perché se ce l'aveva avuto acceso ce l'aveva sentito ed era entrato, era, vuol dire che sta facendo qualche cosa o male. Beh, capa del positivo, non va in campagna per guardarsela, no? Magari la mia accogliendo un po' quello della raccolta, un po' quello di frutta dall'albero, per i bisogni, per i nipoti, allora lo prego, e poi magari la sera la fa di frutta per lo salito bucaccio. Ragazzi, è venuto mio figlio con i miei nipoti, magari ci sentiamo più tardi, grazie della chiacchieratina, ciao Antonio. Ben entrato, sei entrato a salutarci almeno, salutami in casa. Ciao Mario, anche te, salutami a tutti, già ci sentiamo in giornata. Per il momento chiudo. A te Mario, riprendi. A capa Maria, anche a te dai, un buon proseguo di giornata, buon tutto, salutoni al Correa. E ce la risentiamo alle migliori, dai. Dai, buon proseguo, buon tutto e ce la risentiamo. Mia madre, dai, ce la risentiamo tutta la prossimina. E a così, a che vedo, e a così, e a così, e no, ma non l'ho più sentito. Non l'ho più sentito, ma quello l'ho più sentito a nessuno, arrivavo a casa verso le 6:30, 7:15, accendevo. Iniziamo a prepararmi la cosa per la cena, a quell'ora non sentiva nessuno, spegnevo tutto, ma già per me quel cavolo, non hai idea, se gli altri fare il baracchino, no? Quando sei sciacquo che non viene a gana, non viene a gana. Già, e io ci sono una certa ora, ci sono, e se no, tutta la gente da per appena mi risposto subito. No, perché io non parlo da solo, capito? Io accendo il baracchino, se il baracchino è muto, non ci posso fare niente. Non è dietro lì a fischiare, a fare come fanno tanti. A me non è una cosa che se c'è qualcuno, allora va bene, se no ciccia. Ma di solito io ci sono la sera a una certa ora. Lo so, anche tu lavori come tuo padre e come tanti altri, non è che siamo sempre lì attaccati al baracchino aspettando quando entra la gente. Purtroppo quando sei sciacquo sei sciacquo, attendi, se la gente magari una chiacchieratina te la fai, se non senti nessuno, ciccia, cosa ci vuoi fare? Ma già avevo pure nella moto, ma non lo so più nemmeno perché, proprio per questi motivi qua, perché stava sempre muto questo apparecchio. Allora, funzionare, si avrebbe giù tutto e via. Cosa non mancava? Ehi, vabbè, durante l'arco del giorno, se ce l'hai sul mezzo, ascolti i camionisti con la gente lì e buh. Sempre che siano in zona, diciamo così, se no poi a chi è che senti? Io lavoro, quell'altro lavora, tutti lavoriamo e giustamente non è che abbiamo sempre il baracchino dietro, no? Lo so, purtroppo è così, ma noi l'abbiamo fatto anche perché siamo più puri, perché adesso col caldo non è da puri lasciare, è troppo... Se è troppo caro, magari si rovina anche il display, come c'è già successo con un altro apparato, quindi abbiamo detto non ne vale la pena. Allora, un mattino, vero? Si chiama gli altri, non telefonino, così che se c'è qualcosa, una telefonata e via, non è che sia quello del problema, capito? E poi è diverso. E poi non è che c'è sempre dentro la moto. Quando arrivate al posto dovete consegnare, dovete fare, e così c'è via. No, vabbè, già mi faceva piacere finché c'era gente, che io parlavo sempre come scendevo blu, sentivo quello qualcuno, prendevo, scendevo una per un'altra consegna e riprendevo a parlare. Però alla fine quando c'è la gente scompare, cosa cazzo non tengo a fare? Ma tu lo sai che il baracchino lascia il tempo che trova, cioè non è una cosa che sia indispensabile, capito? Cioè io quando devo andare a lavoro chiudo tutto e me ne vado a lavoro, come la sera se sono stanco, arrivo a casa, mi faccio una merendina, poi nel frattempo mi organizzo la cosa da cucinare per la notte, per la cena, poi un po' con la televisione, un po' con quello, un po' con l'altro, se ne sente nessuno, io ce ne stavo via a tentare il baracchino a quando arriva la gente, spengo tutto, l'ho confezionato in sicurico, non è che non è che stai lì a pensare niente. Da grande figlia già accendo anche più presto, quindi già ci sarò sempre più o meno, dai, tranne qualche giorno magari che si esce eccetera eccetera, però insomma se sono qua magari sono un po' al computer, cioè sono un la famiglia, anche tu ti accendi il computer, se ne sente nessuno mica puoi aspettare che entri la gente, capito? Non è il problema, è lì, per esempio oggi domenica, per dire Giuseppe magari se ne sarà andato al mare con la famiglia, e a Giuseppe per dire non lo senti, come non senti a lui, non senti a Coso, non senti, per esempio, poc'anzi c'è la Falchetto, è venuta gente, aspetto tutto, non è che puoi lasciare la gente così, anche Coso a San Napoli, adesso non mi esce, lo Burrun, lo stesso, magari al mare con la famiglia, oggi domenica, mica rimane attaccato al baracchino. E così un po' tutti là. Che cappagamma. Io ero proprio un cercato, sicuro bene, se no. Non metto in ascolto via, sono qua. Mentre che faccio la cosa con Vito, però se sento qualcuno allora spengo. Come ho fatto pochi minuti fa. Mi metto a modulare. Se non lo vedo, lo tengo sempre acceso qua, quando ci sono. Ma Giuseppe non si dà! Ecco, appagato, è come tuo padre, non l'ho più sentito. A vero, prima ogni tanto lo sentivo, poi anche lui è sparito. No, già acceso ieri. Anche non l'ho più sentito lo stesso, a Bulldozer. Ho un po' di gente sparita, prima si sentiva sempre Natalino, adesso non si sente manco lui. Oh, Natalino già si è sentito l'altro giorno, però Natalino c'è impegni e quindi non può. Ma ci vediamo, l'ho sentito da poco, l'ho sentito avanti ieri stesso. Vabbè, ma ti ripeto, io non è che sto lì a tentare la gente quando entrano, io quando accendo, se c'è gente ci chiacchia, se non c'è nessuno muovo tutto e cambiamo discorso, capito? quando l'ho acceso è entrato un fardetto e mi sono messo a parlare, ma se non c'è nessuno, cosa so, rumori in occhi, in piedi, tanto guaracchino, così, parola. Invece di quella maniera, se c'è gente ci parli, se no, no non vado da proprio così. Non vale niente. Ma bisogna vedere. Non ho strano comunque. Se riceve di più da lontano, cioè da in propagazione, magari così. Mario, ci sei? Ehi, già non so che è così, però a me non mi sta dando nessuna soddisfazione, perché la verità accompagnavo a Coso lì a Scala di Ciocca lo perdevo, mentre che prima con la 95 quasi quasi lo accompagnavo anche dentro le gallerie, invece con questa magari è buona per 10, che io non faccio mai. Lì poco fa è entrato uno dalla Puglia, ci siamo scambiati nominativi e coso, poi c'era la sovrappopolazione e così c'è lo perdi, però non lo so, poi là se c'è lontananza va bene e qui in città se c'è la minima zona d'ombra non si sente, capito? Quell'altra è la migliore. Lontananza te lo posso garantire che imbatte un bel allora io adesso ti lascio che ci sono fatte già le 10:30 che vediamo cosa possiamo organizzare da mettere sotto i denti oggi. Gappa, vabbè. A proposito, non lo fanno più tutte e due, né la 5 né la 1, c'è solo la Turbo. Se ce la trovi, la trovi qualche parte di magazzino, così qualcuno ancora che ce l'ha. Me stavo dimenticando di dirla, infatti già si troverà mai qualche parte, non la fanno più. E vabbè, non è un problema, io ho detto quando sarà, se è, ricompro la 5 o la 1. Questa qui non mi soddisfa, se non è che è troppo il sistema di modificarla, perché così come te non mi piace mangiare. Ma secondo me, ma molte volte lo sai com'è, si arrivi a chi fa cara di gioca che non intende, bomba. Io ti posso vedere che se arrivo a cara di gioca mi intende, lo sai cos'è Mario? Un po' di volte dipende anche quanto, non te ne dicono mai per esame, molte volte ti fanno perdere le staffe, lo so. Io ti faccio vedere che se arrivi qui tu mi intende con la macchina, è a Puglia che mi senti anche bene, però molte volte anche chi sta arrogando non te ne dice mai verità. Ecco, si tratta da stabilire quello anche. Vabbè, comunque quella lì quando me la scendo la devo modificare, perché quella piazza in ferro che c'è me la tolgo perché non serve a niente. Se gliela metto, gliela metto. Lui in acciaio inox, magari me la costruisco io trovando un pezzo di placca, o quante panno, o in rame, o in ottone, in modo che non marcisca. E poi vediamo di cambiare anche le viti che ci sono, che quelle viti che ci sono in ferraglia, e si arrugginiscono, e magari le metti in ottone e vanno meglio. Adesso quella lì l'abbiamo piazzata così, in fretta e furia, ma non ne abbiamo ricavato nulla, perché non lo so, è tutta una cosa da rivedere. Ragazza, non lo so, ma secondo me non è così neanche come ha detto una persona, né vara né bombazzo, secondo me chissà dura, e dura un bel dura. La nei commenti che si abbassano a mattese di ziari, matracchi, bomba, alla fine ha fatto quello che voleva, ma non è che sia tutto questo. Per esempio di matracchi vivo potenza, e chi c'è che non ha ancora compreso? Vabbè, quello lì è tutto un altro discorso. niente, così come sono adesso, ho parlato con Suni, ho parlato con Coso, che mi sentiva sempre tramata, e niente, vuol dire che la cosa è lontanante da là, noi ci abbiamo sentito addirittura la Puglia, così che vuol dire che è lontanante da là. Giustamente se l'antenna c'è una buona posizione eroga bene, se c'è una brutta posizione eroga male, giustamente. Non è solo il discorso, poi è bello quando uno arriva e riesce anche a sentire, capito? Infatti io le modifiche che faccio le farò per cercare di sentire meglio, perché tutta quanta quella roba che tende a mettere l'ugine, a mettere l'uscita, la elimino, capito? O metto vite lo stesso in acciaio inox e gli faccio la placca di sotto anziché il metallo, gliela faccio in acciaio inox oppure gliela faccio in ottone. Intanto di quelle lastre in ottone ogni tanto già me ne capitano. Così che la prima che trovo buona che posso fare è ricavare quel cerchio, lo piglio e me lo faccio, non è che ci voglia un ingegnere, no. Infatti si tratta solo di cambiare la parte di sotto che tende a marcirsi, capito? Ciappa, ma secondo me non è neanche così, una cosa se progettata è progettata per durare, non è che è progettata per... Secondo me quella roba ti durerà un bel po' di tempo, ma comunque se tu le vuoi mettere più forte eccetera eccetera fai anche bene, ma poi sulla ricezione, sulle cose, cioè chi eroga e chi cosa, quello lì c'è un po' da discutere, cioè perché molte volte non te ne dici in verità era niente, molte volte magari chi superiore scende a 200, chi da superiore scende a 5 watt, che fa una bella differenza, purtroppo è così, ma comunque lasciamo perdere che è meglio, già lo sai meglio di me, lo sai. Io sto usando sempre gli stessi lati, non è che sto lì a aumentare, a fare, a disfare, a me di quello lì non me ne frega niente, cioè io quando avrò il tempo che salgo su, ne scendo l'antenna, ne smonto il pezzo che mi interessa, cioè la base, ne faccio tutti gli accorgimenti, perché il progettista l'ha progettata, poi se tu la fai con la mondezza l'antenna, hai fatto un'antenna con la mondezza, capito? Anche perché loro, il discorso loro è diverso, dice noi facciamo le antenne, ma se noi vendiamo milli, un esempio faccio nei punti, così è, e poi abbiamo dei milli in magazzino che non riusciamo a vendere, cosa te ne vedremo? Facciamo la fabbrica, allora lo fanno con roba che è anziché durarsi per dire 20 anni, fanno roba che ti dura 2-3 anni e poi la devi ricambiare perché è marcia. E invece se io trovo il tempo, perché intanto lo stilo non si marcisce così facilmente, però tutta la carica di sotto me la modifico, capito? Perché anche la serpentina che c'è sotto, quella, la spirale, se la vedo me la posso pure cambiare, la faccio precisamente, che mi piglio una verga di rame, la metto nella piegatura e gli faccio fare la serpentina precisamente e poi gliel'attacco. Il rame è un buon conduttore, anzi forse uno dei migliori, a parte l'oro. Così che non si usa da come si usa da quella che c'è. I bulloncini che ci sono, anziché essere messi in ferraglia che piglia un po' di ruggine e si marcisce subito, perché c'è umidità, lo fai in un modo, un altro giorno non c'è umidità, lo fai in un altro modo. Capito quello che ti voglio dire? Ciao. Oh, ma è strano però. Ma comunque questa che c'è qua sopra, per dire, cioè dopo una quindicina d'anni ha perso il radiale di una turbo come quella, cioè ha perso un radiale, poi dopo adesso c'ha più di minimo c'ha 18 anni, c'ha 40, no. E qualche radiale l'ha perso, ma dopo quanto però? Io non sto parlando di perdere qualche radiale, io sto parlando per avere sempre un'ultima trasmissione e un'ultima recensione. Se tu vai sul tetto e guardi la base di quell'antenna lì, dalla turbo, sotto, è già tutto grafico, perché ne sono sicuro al 100%, perché ho visto come è fatta, capito? Io quando l'ho comprata questa qui, siccome c'è la fretta di piantarla, è stato tutto fatto così in fretta e in fretta. Ma se avessi avuto tempo, quella base io, me l'avrei messa da una parte e ne avrei fatto tutti quanti gli accorgimenti, o in mattone o in acciaio, in modo che la ruggine non attacchi, è solo per quel motivo lì, capito? In modo che ci abbia sempre una buona ricezione e una buona trasmissione. Poi se ne scende un radiale non succede nulla, però la trasmissione è sempre quella, perché tu hai visto che io avevo la terra incappottata, però fino a che l'ha messa lì funzionava, poi quando me l'ha buttata del tutto, me l'ha spezzata del tutto, ma buonanotte, e la spezzata non ce n'era. Ma se no prima andava bene, anche la carrotta. Due avanti. Buongiorno. Allora, ma che c'è brutto sei? Oh Mario. Non l'ho capito. Ha detto rapido di tutto. Poi l'hai salutato tu, non ti ha risposto. Ma non sono riuscito a capire chi è. Bello sei! Ma dove? Fino a casa mia! Eccoci a Rivelli 7! Aspetta, Antonello! Ehi, Antonello, la casa è vicino a casa tua, è successo di Davide! Capo, sta arrivando basso qua, per essere lì, mi sono dovuto arrivare a fondo scala. Me ne preparo, non me ne preparo. più tardi. Questo zappone, il zappone non scala, è anche attenuato. Altre le dai, ci vediamo più tardi.